una spiegazione dei fiori. Sì, esatto, è molto inusuale. E i fiori sono, derivano dal fatto che lo dice, Olympe de Gouges ha detto nel 92, non molto tempo prima di essere giustiziata, afferma, avrei voluto una rivoluzione cosparsa di fiori, diceva, e quindi è un, come una specie di ricordo di quello che lei avrebbe voluto e che invece non è stato. Ecco, io spero che dopo, se volete, insomma, abbiate modo di di tenere tra le mani e di sfogliare questi preziosi, queste preziose pubblicazioni che noi, come come è accaduto anche nelle occasioni precedenti, vogliamo esporre, no? Vogliamo far vedere, far godere, insomma, le pubblicazioni, gli oggetti, i libri, gli opuscoli, questi oggetti di carta conservano sempre una grande attrattiva, perché poi si vedono le differenze dei modi di stampare, i caratteri, insomma, proprio si legge una storia, no? Nel passaggio da una pubblicazione all'altra, da un genere all'altro. Quindi non mi soffermo ulteriormente su, come dire, il piacere del testo che noi, che sta un po' all'insegna di questi incontri che abbiamo organizzato quest'anno su questi testi chiave della modernità, cioè i libri che hanno, che segnano le tappe, vi ricordate, siamo partiti da Jean Bodin e Thomas Hobbes, e piano piano ci stiamo avvicinando a quel culmine della modernità, un culmine anche, come dire, molto problematico, perché come e più degli altri condensa in sé i paradossi, ancor più che le contraddizioni del tragitto della modernità, che è Marx, e a cui sarà dedicato l'ultimo degli incontri da noi previsti a fine giugno. Stasera invece il nostro incontro è dedicato all'esplorazione di due figure femminili chiave di questa storia della modernità, che sono Olympe de Gouges e Mary Wollstonecraft, che abbiamo voluto riunire insieme. In particolare io ci tenevo a mettere insieme, perché un po' in dialogo con la mia amica Nadia Urbinati, la quale contrappone sempre Mary Wollstonecraft a Olympe de Gouges, facendo di Mary Wollstonecraft in qualche modo la capostipite di una storia incompiuta ma ancora del tutto attiva come dire, della condizione femminile come rappresentante di un culmine non ancora raggiunto ma raggiungibile dei diritti, della storia dei diritti in Occidente. E appunto Mary Wollstonecraft invece in qualche misura contrapposta a Olympe de Gouges, che segna il naufragio di questa storia ancor prima che prendesse quota e cominciasse a marciare. A me è piaciuto mettere insieme queste due figure femminili, perché io penso che rappresentino l'irriducibilità della questione femminile, della condizione femminile, della storia delle donne alla storia dei diritti in Occidente. Vale a dire che in varia misura ci sono stati dei passaggi in cui queste due cose si intrecciano, ma è ancor più che intrecciarsi, io direi che la condizione femminile è il segnalatore, non il segnalatore di incendi, come si diceva un tempo, ma proprio il segnalatore di qualche cosa che c'è nel profondo di questa tradizione e che solo in certi passaggi storici viene alla luce, vale a dire le sue contraddizioni, i suoi paradossi. A me questo mi piaceva molto, e In qualche misura la figura di Olympe de Gouges rappresenta proprio tutto questo, e in particolare i suoi scritti politici. Noi abbiamo organizzato nel 1991, in occasione del 200° anniversario della pubblicazione della Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina di Olympe de Gouges, abbiamo organizzato un convegno, e poi da cui poi è uscito un volume che è uscito dalla Terza e che si chiamava appunto il dilemma della cittadinanza. Fra l'altro è rimasto uno dei pochi esempi di volume, che di laboratorio di riflessione intorno a questo nodo, perché come voi sapete il femminismo italiano si è precocemente scisso in due tendenze molto, molto restie a colloquiare fra di loro, vale a dire un'ala dialogante con le istituzioni, il cosiddetto femminismo delle pari opportunità, e quindi molto teso verso una serie di riconoscimenti da parte delle istituzioni, e invece un femminismo orgoglioso della propria irriducibilità a tutto questo, il cosiddetto femminismo della differenza sessuale, inaugurato dalle donne della Libreria di Milano, da Luisa Muraro, Lia Cigarini e dal gruppo di Otima. E anche il gruppo di Otima è il gruppo Ipazia, che appunto in epoche non sospette aveva iniziato la riflessione sull'autonomia di pensiero delle donne anche nel mondo antico. Ecco. Dicevo che questa separazione molto precoce fra queste due ali del femminismo italiano forse non è del tutto, come dire, non è del tutto lontana anche dalle impasse, da alcune impasse che possiamo registrare come dire, nello sviluppo di una riflessione e di un lavoro femminile, nella sua autonomia ma anche nella sua capacità di incidere nella realtà, nella realtà sia degli studi che nella realtà politica. Io penso che le due, ci sia qualcosa che dipende anche da questo, però è anche vero che il femminismo della differenza segnalava, soprattutto ai suoi inizi, segnalava la, come dire, la presenza di uno scarto e di una difficoltà insuperabile poi nel tentativo di ridurre le rivendicazioni delle donne alla storia dei diritti, come se queste le rivendicazioni delle donne fossero includibili in questa grande storia semplicemente a partire da una buona volontà e da uno smascheramento della cattiva volontà o della miopia dei governanti e così via. Ecco, Olympe, la riflessione sul lavoro di Olympe è veramente molto illuminante da questo punto di vista. Non solo la Dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che noi ripubblicavamo nel 92 appunto in questo volume, ma anche dei saggi, i suoi saggi politici, alcuni degli tantissimi saggi politici, opuscoli, strane creature, strani oggetti di scrittura da lei creati nel corso di una vita breve ma molto intensa dal punto di vista della operatività. Poi lei non scriveva personalmente, no? Faceva scrivere da una sorta di segretario maschio che metteva e che scriveva, perché lei produceva in un solo giorno anche 2-3 opuscoli, perché, e rivendicava questa sua, come dire, questa sua fretta. Non frettolosità, ma questa sua fretta, questa sua ansia, questo suo desiderio di mettere immediatamente al mondo, di dare veste pubblica a questi pensieri che produceva con una vertiginosa produttività. In questa, più recentemente, Medusa ha pubblicato, parlo del 2009, cioè quindi l'anno scorso, ha pubblicato alcuni degli scritti politici, insomma una serie di opuscoli. Vorrei ricordare velocissimamente appunto il carattere molto articolato della produzione di Olympe, come vedremo, mi soffermerò un momento, questo non è indifferente dal punto di vista delle chiavi di lettura della sua opera. E dunque lei ha scritto tre romanzi saggio, tra cui l'autobiografico Memorie di Madame de Valmont, 40 drammi teatrali con prefazioni in forma narrativa che presentavano questi drammi come una favola raccontata agli adulti, 80 pamphlet politici e un numero imprecisato di scritti di natura molto varia. E qui la cosa interessante, primo punto interessante da segnalare, il continuo tracimare dell'istanza specificamente politica, cioè del carattere politico dello scritto, in racconto delle vicissitudini personali, cioè continuamente la protesta, la rivendicazione politica diventa una richiesta personale e si iscrive immediatamente in quella sorta di autobiografia a puntate che è un po' la sua opera e che potremmo presentare come la prima forma di autobiografia di un femme auteur. Lei così si pensava, un femme auteur, una donna autore, e nel carattere inaudito e senza precedenti di questa cosa voleva che si collocasse anche non solo l'ingovernabilità delle sue forme di scrittura, ma anche il suo riprodurre tale ingovernabilità nella pubblicazione. Ecco, a me sembra, e qui volevo precisare perché è interessante soffermarci un po' sul modo di produzione della scrittura da parte di Olympe de Gouges, è interessante perché in questa, poi vedremo anche che lo è perché appunto inaugura questo continuo trascorrere tra pubblico e privato che poi abbiamo saputo, e questo è una creazione del femminismo, essere uno dei dati fondanti delle scritture e dei pensieri al femminile, ma insomma oltre che per questo, anche su questo mi soffermerò un altro momento dopo, ma perché in questa continuo trascimare dei materiali personali nell'istanza politica emerge quello che Joan Scott, che è la maggiore interprete a mio parere di Olympe de Gouges e delle Giacobine, no? Ha scritto un libro bellissimo sulle Giacobine che si chiama appunto Solo paradossi da offrire, no? In cui lei legge appunto le Giacobine come potenza del sogno e come rivelazione da parte di questo sogno del Giacobino e del paradosso della cultura politica allo stato nascente, della cultura politica occidentale allo stato nascente. Insomma, la potenza del sogno di Olympe de Gouges, che è in particolare, per esempio, emerge poi non solo negli scritti piccoli e più d'occasione, ma anche negli scritti un po' più che lei tendeva a presentare come un po' più organizzati. Per esempio c'è un testo che purtroppo non abbiamo ma che è molto bello, che si chiama Séance royale, Les songes patriotiques, dedicato nel 1789 al Duca d'Orléans. In questa sequenza, lì vediamo proprio rappresentato allo stato, come dire, nascente, quello appunto, questa potenza del sogno di cui parla Joan Scott. In questa sequenza di sogni patriottici, Olympe immagina di essere il Duca d'Orléans, che propone al re di Francia uno statuto rinnovato dei rapporti parentali, dal divorzio al riconoscimento dei figli naturali e alla condizione paritaria della donna. Come femme auteur, come autrice capace, questo è un punto importantissimo per lei, la rivendicazione principale è la possibilità per la donna di esprimersi come femme auteur, cioè come capace di rappresentarsi nelle forme simboliche principali, la scrittura, la messa in scena, la mise en scène, eccetera. Ecco, la forza, diciamo, di questa scrittura di Olympe è proprio perché riproduce quello che era un po', come dire, una prerogativa che in fondo forse, Alberto Burgio direbbe, l'intelletto generale all'epoca della Rivoluzione Francese viveva come consentito a tutti, cioè la fantasia e il sogno, no? E come una consentito e ammesso e legittimato per tutti i cittadini. E in Olympe c'è questa, come dire, specifica incarnazione del sogno come abolizione delle frontiere stabilite dalla differenza sessuale, però un po' tutti i francesi all'inizio della rivoluzione sognavano, no? E quindi questi scritti di Olympe sono interessanti perché partecipano dell'intelletto generale che partoriva questa partorito da questa potenza del sogno, ma in qualche misura in una accezione molto specifica, che è la possibilità di dar vita all'individualità delle donne senza rigettare la differenza sessuale, ma neutralizzandone le conseguenze. Questo è un punto importante, perché, come dice John Scott, e questa è una chiave che John Scott ci offre per interpretare la storia delle donne in Occidente, è che l'impossibilità per il sogno femminile di tradursi in istituzione è dato dal fatto che c'è una richiesta di universalità che però parte da una irriducibile parzialità, cioè che è la differenza sessuale. Cioè, John Scott dice, intorno a questo nodo, a questo paradosso, tutti si, come dire, si articola la storia delle donne, che lei vede appunto ritornare in tutti i passaggi chiave fino ad arrivare appunto ad oggi. Appunto John Scott cita non solo Catherine MacKinnon, ma cita la nostra Carla Lonzi, insomma, ecco questo. Ecco, dicevo che questo è uno dei punti chiave. L'altro punto chiave appunto è questa stretta connessione fra pubblico e privato. A questo proposito volevo leggere, su cui si sofferma moltissimo anche la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina, che è del 91, 1791, c'è postambolo di questa dichiarazione, perché questa dichiarazione c'ha una lettera è dedicata alla regina, perché Olympe de Gouges si pensava come una potenziale alleata della regina, che l'aiutasse la regina a uscire dai suoi autoinganni e con la sua guida prendere parte a questa nuova vita politica che si andava delineando. Ecco, nel postambolo c'è una descrizione molto interessante di quella che era la scena pubblica e i mutamenti che si andavano verificando sotto gli occhi di Olympe, e che per noi sono, quindi è una testimonianza storica molto interessante. Lei dice a un certo punto, sotto il vecchio regime, perché la cito perché è molto interessante, sotto il vecchio regime tutto era vizioso, colpevole. Pure si può cogliere oggi un deciso miglioramento, anche solo analizzando i vizi e il loro mutamento. Un tempo a una donna bastava essere bella e compiacente. Se possedeva quei vantaggi, trovava ai suoi piedi mille patrimoni. Se non ne approfittava, voleva dire che aveva un carattere strambo o un modo di pensare bizzarro, che la portava a disprezzare le ricchezze. Perciò veniva considerata nient'altro che una testa matta. Alla più svergognata, per farsi rispettare, bastava essere ricca. Il commercio delle donne era una specie di industria promossa in prima classe, ma che ormai non ha più credito. Se mai ne avesse ancora, la rivoluzione avrebbe perduto e sotto un certo aspetto saremmo tutti corrotti. Ecco, questo mi sembra, no, scusate la citazione un po' lunga, perché questa è una delle microstorie. Tutte le opere di Olympe de Gouges intrecciano milioni di, non milioni, ma insomma moltissimi sono tanti piccoli osservatori sui fatti della vita quotidiana, sua e delle persone. Infatti è una Parigi bellissima quella che emerge, i vicoli che ormai non esistono più, che i Grand Boulevard hanno completamente eliminato, cioè questo mondo pieno di ricchezze e di miserie continuamente, non so, i bagni pubblici dove tutti andavano e si osservavano reciprocamente. Insomma, è una vita estremamente interessante. Ecco, dicevo che da tutte queste microstorie, e qui terzo punto interessante delle sue opere, emerge però anche una macrostoria, e come in qualche modo la sua è un primo esempio di intreccio fra micro e macrostoria, vale a dire la macrostoria è in qualche misura la matrice primaria delle ingiustizie del nuovo mondo che stava prendendo corpo, pur nelle sue conquiste, piccole o grandi che fossero. È l'ingiustizia delle ingiustizie, la macro ingiustizia che stava alla base anche di tutte le altre, era l'esclusione delle donne da questo mondo nuovo delineato sul piano macro storico dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789. E a cui tutti giustamente fanno risalire la nascita della cultura politica occidentale moderna. Insomma, la Dichiarazione dell'89 è in qualche misura, come dire, il meccanismo principale. E quindi questa Dichiarazione, che si presenta orgogliosa e capace di, è così superba di sé da proporsi come modello da esportare in tutto il mondo, e che effettivamente è stato in gran parte esportato anche, però c'ha, come dire, è una bellissima mela che c'ha un verme dentro, no? Cioè, c'ha un meccanismo di esclusione che, come dire, è presente fin dal primo momento. Allora, il punto è proprio questo, cioè, è possibile? È riformabile? Oppure dobbiamo considerare che questo meccanismo, avendo in sé questo tarlo, questo verme dentro di sé, non è, insomma, va buttato a mare e va rifiutato in tutta la sua... Insomma, questo è un discorso aperto, perché Nancy Pelosi, nell'inaugurare come speaker, no? La Camera dei Deputati americani che l'aveva eletta come speaker, disse: benissimo, sono 200 anni, più di 200 anni che aspettiamo questo momento. E anche lei faceva risalire a quel momento originario, no? Il fatto di questa maglia messa al rovescio che rendeva tutta la costruzione difficilmente sostenibile. Io sarei molto tentata qui, ma insomma lo farò a grandissima velocità, dico soffermarmi, come ci è accaduto nel corso di uno degli incontri che abbiamo dedicato quest'anno insieme con Marina a Pari e Dispari, al tema della forza di questa tradizione politica occidentale di cui tutti noi facciamo parte, e della tradizione dei diritti che dentro questa storia si iscrive in modo molto nobile, insomma è molto alto. Insomma, sarei molto tentato di ricordare quello che scriveva, che ha scritto John Elster commentando per l'appunto The Making of the Declaration, cioè proprio in un testo che ha dedicato alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, in cui dice: benissimo, prendiamolo questo esempio di tutte le costituzioni che poi sono state scritte e che insomma possiamo considerare costituzioni nel senso moderno del termine. Presenta alcune caratteristiche che sono tipiche delle costituzioni moderne, vale a dire il fatto di risultare dall'incontro fra una pluralità di soggetti. Ma andiamo a vedere chi sono questi soggetti che si incontrano qui. Lui dice: benissimo, sono almeno due, l'uomo e il cittadino, e si presuppone che quindi non siano la stessa cosa. E allora, benché l'uomo l'uomo si può coniugare in uomo e donna, il cittadino presuppone una cittadina che non è uguale al cittadino, no? Perché mentre procede in questa analisi, Elster ci riconduce anche alla, all'articolazione della dichiarazione che poi diventa la Costituzione del 92, in cui sono specificati proprio diritti e doveri dei cittadini proprio come distinti da diritti e doveri dell'uomo. Cioè, erano i cittadini poi ad essere sottoposti alla normazione della, che la dichiarazione dei diritti, insomma, invocava e che poi diventa la Costituzione francese. Dunque, in questa normazione si vede bene che emerge una cosa molto interessante, molto particolare, vale a dire la distinzione. Perché i cittadini, a differenza dell'uomo e donna, non sono così diseguali? Perché sono distinti in attivi e passivi. I cittadini attivi e passivi è una distinzione famosa dovuta a Sieyès, come è noto. È questa che fa sì per cui i cittadini passivi sono quelli a cui vengono imposte le leggi e a cui che sono tenuti ad obbedire, senza poter partecipare all'elaborazione di queste leggi, a cui partecipano solo i cittadini attivi. E guarda caso, i cittadini attivi sono i cittadini che hanno le virtù maschili per eccellenza connesse al carattere attivo. Cioè, un altro punto molto interessante, voi sapete, una cosa nota fra gli studiosi della Rivoluzione francese, la famosa contraddizione di Condorcet, cioè perché di tutti gli uomini politici, le figure politiche dell'epoca, uno dei più interessanti dal punto di vista che qui ci interessa analizzare è proprio Condorcet, perché Condorcet oscilla. Nel senso che inizialmente è favorevole a una, a un riconoscimento dei diritti delle donne. E ha scritto questo, che appunto, Essai sur l'admission des femmes aux droits des cités, scritto nel 1790, e tuttavia nel suo progetto di Costituzione presentato alla Convenzione Nazionale nel 1793 non c'è un cenno di questo. Quindi è come se lui avesse presentato questa cosa, però poi l'avesse riposta. Si era reso conto di essere in totale minoranza e che non avrebbe avuto più. Però esiste un interessante legame nella sua difesa nella sua parziale accettazione dei diritti delle donne e la sua lettura delle identità politiche. Per Condorcet esisteva una netta separazione, anche questo è un punto molto interessante, tra l'identità politica e la biologia, mentre invece i giacobini sono i sostenitori, come dice Foucault, sono coloro che incarnano il primo esempio di biopolitica. Il rivoluzionario, è la figura del rivoluzionario è tagliata sul corpo maschile, cioè sulla virilità fisica, no? L'eroismo del giacobino è pensato proprio con le caratteristiche biologiche, no? Del maschio, quindi mascolinità. E infatti sentite l'ultima citazione. Come Le Feuille du Salut Public commenta la morte di Olympe de Gouges. Olympe de Gouges, né avec une imagination exaltée, prit son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulut être homme d'État. Il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d'avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. Ecco. E quindi questa donna, che fra l'altro Robespierre odiava al di sopra di ogni possibile, cioè era proprio l'incarnazione di quanto lui no. Poi accusata di essere girondina, sostenitrice in fondo della monarchia, mentre insomma, adesso non possiamo soffermarci, ma i consigli che lei dà ai re è solo di accettare la Costituzione, non sono... E senza appunto farsi tagliare la testa. Certo, era nemica del taglio, del taglio generalizzato della testa come soluzione politica. E quindi, benissimo. Arrivo alla conclusione. Che cosa significa? Perché mi interroga ancora il sacrificio di Olympe? Al di là di come dire, cioè c'è un... John Scott ne fa una lettura molto bella su cui non mi posso soffermare, cioè la potenza del sogno che lei ricostruisce sulla base anche di un altro contributo bellissimo di Denise Reilly su la fantasia e il carattere sessuato della fantasia e il carattere specifico della fantasia femminile, come si distingue da quella maschile, insomma. No, non mi posso soffermare, è un punto molto interessante questo da analizzare. Invece la cosa su cui vorrei chiudere, perché ieri noi abbiamo presentato un libro molto interessante di Ugo Mattei e Laura Nader che si chiama Il saccheggio, regime di legalità e trasformazione globale. Questo libro, che io non ho ancora letto, ma che ho solo sfogliato oggi, ma mi è sembrato molto interessante, insomma c'è una tesi che insomma mi pare che stia al cuore di questo libro, vale a dire è un'indagine su The Rule of Law, regime di legalità e come dire, la complicità del Rule of Law occidentale con il saccheggio, a cui tramite questo rule of law l'Occidente ha sottoposto il resto del mondo. Questo naturalmente è detto in tono, è molto sinteticamente riassunto ed è stato anche criticato per questo nella presentazione di ieri. E io non sono per liquidare il rule of law oppure ogni forma di potere come cattiva, brutta e cattiva, eccetera. Soprattutto quello che mi stimola e quello che vorrei conoscere è il modo in cui nel potere si intrecciano elementi positivi e elementi negativi, possibilità che rispecchiano bisogni, domande e desideri anche di una pluralità di soggetti e non di un solo soggetto. E questo credo che sia un tema su cui davvero valga la pena di continuare a insistere, però è anche perché io ho molta simpatia per la legalità, io lo devo confessare, ho una grande simpatia per la legalità e molta antipatia per l'illegalità. Però anche l'illegalità è di due tipi, è quella chiara, patente, diffusa, che suscita la nostra ripulsa e probabilmente forse non abbastanza, ma insomma, ma esiste purtroppo una illegalità ancora più dannosa che è quella invisibile, no? Una legalità invisibile, illegalità invisibile, e Foucault ancora una volta ci ha avvertiti, e su questo io lo concordo in pieno, che ciò che rende possibile la presa del potere su di noi è la sua parte invisibile, quella è la cosa che ci rende soggetti al potere, no? E quindi è sempre Foucault, è uno che proprio vede nella Rivoluzione francese il punto, il terreno su cui si formano tutte queste forme, queste forme moderne di presa sui soggetti, no? Ecco, io credo che vada ripensato con forza il legame fra l'esclusione delle donne e il dilagare della corruzione, innanzitutto tra gli incorruttibili termidoriani. Quello è il primo esempio di vera corruzione, no? Di come un potere che nasce come incorruttibile invece si corrompe. È una delle corruzioni, è la posizione di Robespierre sull'Olympe de Gouges. Veramente, cioè il taglio della testa di Olympe è la dimostrazione di questo nesso, cioè di questo, cioè una testa tagliata che non dico che è la causa, ma insomma c'è un legame. E quindi io mi avvio proprio a concludere dicendo che perché, forse rendendo ancora più chiaro il perché trovo difficile, è difficilissimo e continua a essere difficile dare spiegazioni univoche e lineari del rapporto fra condizione femminile, libertà femminile e condizioni storiche, no? Mi ricordo quando con Michela, che qui leggevamo, insomma commentavamo insieme a George Eliot, no? C'è una famosa frase di George Eliot che dice: certo, se fosse facile interpretare la vita delle donne così in base al cambiamento delle loro pettinature e dei loro abiti, avremmo risolto il problema, ma invece purtroppo c'è qualcosa che resiste a questa. E quello che resiste è la difficoltà a dedurre in modo semplice e lineare questo scarto che le donne manifestano in certi momenti, alcune donne soprattutto, ma poi forse tutte in realtà, se interpretate meglio e decifrate meglio nei loro significati, al di là di questa falsa dicotomia cittadini attivi, cittadini passivi, che abbiamo visto essere derivare da una contraddittoria impostazione anche della Costituzione francese modellata sulla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, dicevo che, per esempio, l'evento della libertà femminile non è riducibile alle condizioni storiche in cui esso si manifesta. Non lo era ai tempi di Olympe de Gouges, così come forse non lo era nemmeno la libertà dei francesi, no? Ma certamente non lo era quello di Olympe de Gouges, e certo non lo è oggi, non lo è tantomeno oggi, ma io credo profondamente che a quello che sosteneva, insomma, il vecchio patriarca Goethe, e che è poi al centro del suo grande poema, vale a dire che ogni biografia in certe condizioni è sempre una storia universale.